In questo podcast si parlerà di musica, artisti, politica, poesia. Quindi siamo pronti a partire e a me non resta che dire sigla! Un'altra radio Roma. Si è svegliato! Buongiorno, signor Marchese. Buona giornata, eccellenza. Dormito bene, signor Marchese? Oh, ma che è qui? Andosso, oh! Signor Marchese, nel suo palazzo. Nel mio palazzo? Ma che cazzo sta di? È il palazzo, signor Marchese. Io so Gasperino il carbonaro. Ma signor Marchese! Ah, ma basta con sto Marchese! Mamma mia, l'ha rotto i coglioni! Io so Gasperino il carbonaro. Radio. Io so Gasperino il carbonaro. Un'altra radio. È una radio che potrebbe avere effetti indesiderati e anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Io so Gasperino il carbonaro. Salve, salve a tutti. Dai microfoni dell'altra radio Roma vi parla DJ Gasperino, pronto per scaricare con voi una serie di musiche eccezionali. Sono molto elettrizzato e contento dopo l'esperienza della volta precedente. Ricordo a tutti voi che la musica che state ascoltando è libera, perché è tratta liberamente da siti come Jamendo. The music is free. Passeremo insieme circa un'oretta ascoltando musica, scambiando due chiacchiere su argomenti che lancerò io attraverso questo microfono. Ma adesso ho già parlato abbastanza e sono pronto a proporvi il primo gruppo che fa musica elettronica. Il gruppo si chiama Revolution and Void e la traccia è Effects of Elevation. Successivamente sentiremo dei jumpy Speak to Me, ma adesso Revolution Void con Effect of Elevation. E se di Roma sei amante alla massima essenza, un'altra radio Roma dà la tua voce grande potenza! I'm gonna go get some more. Spettacolare e scoppiettante qui su un'altra Radio Roma. Erano i Giampi con Speak to Me, mentre prima avevamo ascoltato le note dei Revolutionary Void che ci avevano proposto Effect of Elevation. Ed è così che ci avviciniamo a un genere a me realmente caro, quello che è il jazz. Il jazz che nasce nei primi anni del Novecento nel sud degli Stati Uniti d'America, lì dove vengono a confluire le tradizioni musicali dei continenti europei e africani. Gli artisti che ho scelto per noi per questo genere sono due. Il primo è Paolo Pavan, che ci presenterà Pablitos Way, artista romano di circa 40 anni, anche lui de Roma come noi, che ha esperienze notevoli musicali in generi come il pop, il rock, il jazz, la musica leggera, collaborando anche alla realizzazione di progetti discografici. Trattiamo Pablitos Way dall'album Looking for a Way Out, mentre il secondo gruppo è un gruppo che avevo già presentato un'altra volta, Sony Suerte, con Court Circuit. Ma prima, Paolo Pavan con Pablitos Way. Thank you. Court Circuit dei Suerte con il loro Ethno Jazz. Ora ci avviciniamo a un gruppo a me caro, Sony Talco, ci presentano Oro Nero e a voi auguro buon ascolto. Dove se troviamo? Non so! Sintonizzato su un'altra radio, un'altra radio. Storie spente, memorie tradite, piange tragedie antiche, mano ninja lite. L'età sprofonda tra le sorti incerte dell'impero, di una patria feconda che svende l'orrore in cambio dell'oro nero. Il terrore soperpetuoso dall'ignara nazione che si culla nell'orgia della disinformazione. Lo sceriffo rassicura il fine e poi la libertà, rappresentando un commissario per giustificare nubi di torture e costrizioni a supporto di legalità, i diretti chimere sta le strisce tra le gambe dell'impunità. Legalità. Lugubre avanza, brucia le colpe e le ferite del male, specchio guardo di sogni del vecchio capitale. Sono schegge di ieri, scorrono i fili di uno stile passato, per un domani ignoto, dal volto incappucciato. Ma il progetto non comincia, non si deve scogitare, una persona un espediente per poter giustificare nubi di torture e costrizioni, a supporto di legalità, i diritti chi me resta le strisce, tra le gambe dell'impunità. Legalità. La guerra, l'uso della violenza per risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi, è una strategia che non porta da nessuna parte. Le condizioni a sue parte di legalità, i diritti chi me ne sta le strisce tra le gambe dell'impunità. Crolla la libertà tra le gambe dell'impunità, cade la dignità, il terrore è legalità. Crolla la libertà nell'oceano dell'impunità, cade la dignità, il terrore è legalità. era Oro Nero dei Talco. Ed è già pronto per tutti noi un pezzo di un gruppo che non dimenticheremo così presto. Loro sono i Memories Lab e il brano è Just Excuses. Just Excuses dei Memories Lab. L'altro giorno, mentre leggevo un romanzo dal titolo Gli ultimi sette giorni di Peter Krumb di Johnny Glynn, ho trovato una frase che mi ha fatto riflettere e mi ha lasciato qualche domanda che vorrei condividere con voi. Prenderò proprio pochissimi minuti per fare questo ragionamento insieme. La frase era la seguente: alla base di ogni rapporto umano c'è la menzogna. Una frase ad effetto, una frase che fa riflettere, che fa soffermare. E io ci ho pensato un po'. Ho detto, effettivamente in parte di quello che incontriamo nella nostra vita quotidiana è così. Infatti, se pensiamo che sentiamo da un qualsiasi venditore, cercherà di venderci il proprio prodotto accampando, inventando delle scuse. In fin dei conti, una menzogna aiuta a vendere un prodotto. E riflettevo anche che la politica oggi non è nient'altro che una forma di voler vendere necessariamente un prodotto che appaia migliore dell'altro, non è importante se di destra o di sinistra, lì dove la politica di per sé dovrebbe occuparsi delle cose di tutti i cittadini con lo scopo di far crescere la nazione e far sì che tutti possano vivere meglio, leggi più giuste, regole più giuste. Non mi sembra che sia proprio così, mi sembra che ognuno cerca di venderci un prodotto. E se volete potete mandarci delle mail qui a Un'altra Radio Roma, così che possa vedere il vostro pensiero e rileggerlo nei prossimi podcast. Adesso chiudo questo spazio di riflessione con una poesia dal titolo La politica di Trilussa, che recita così: nel modo de pensà c'è un gran divario. Mi padre è democratico cristiano e siccome è impiegato al Vaticano, tutte le sere recita rosario. De te fratelli, Gigi che è più anziano, è socialista rivoluzionario. Io invece sono monarchico al contrario, de Ludovico che è repubblicano. Prima di cena litigamo spesso, per via di sti principi benedetti, chi vo qua, chi vo là, pare un congresso, famo l'ira de Dio. Ma appena mamma ci dice so cotti di spaghetti, siamo tutti d'accordo nel programma. Pa pa pa ro ga ro ba ke ke ku wa pa ke ro ga ro wa pu wa pa pa pa pa ro ga ro ba un matin comme celui-là où les rêves pendent encore au ciel comme de ces guirlandes. Un matin comme celui-là, la veine électrique et le destin subtil, nos entrailles flambent. Nous aurons violé l'aube, traîtresse de nos nuits. Nous serons rois de rose et enduit avec pour tout trône ce bon vieux globe. Comme des arbres sous l'écorce des larmes. Plus de Dieu, y a plus de drogue. Jouissons à travers ce globe. Un matin comme celui-là, nous aurons une haleine d'orphelin sous une bonne étoile. Un matin comme celui-là, nous serons prêts à nous envoler vers cette bonne étoile. Nous mettrons de l'éclat de rire dans notre âme, maîtresse de nos nuits. Après avoir bien joui, nous redeviendrons calmes, grands comme des arbres, sous l'écorce des larmes. Et plus de drogue, jouissons à travers ce globe. La Vérité, Part 1, Full Dada's Fire. Ma che de? Dicono la radio. Tu sai che? Dicono non è la radio, è un'altra radio. Come? Un'altra radio! Come? Un'altra radio! Un'altra radio Roma, la radio in bassa frequenza. Dunque, sempre DJ Gasperino che vi parla, e per voi sono già pronti altri due brani che vi faranno scatenare e sicuramente ballare. Il primo è De Prau, Yaye Prau, e il secondo è di Audra Art dal titolo Think. Se oggi, dopo i vizi di ieri, sei ancora in coma, non te preoccupa, a svegliate, ce pensa, un'altra radio Roma! Braude! Buscarnos a tos ceguetas! Braude! Farrarnos a surtidas! Braude! Trebarnos a sidellas! Soy un vicino panza! the power to send shivers down my spine. Such a shame, I always wonder where you are all the time. Did you think that you're different? Did you think it's easy to control? Did you think about loved ones, your family, all you had to lose? Did you think about me? Did you think about you? Or did you did you think about your loved ones, your family, everything you had to lose? Did you think about me? Did you think about yeah. Loro cantano Io lo so, mai cambierò, e allora accetta questo che ti do. Sono i Nutra Nuges dall'album Poco Lucido, Mai cambierò, cambierò, cambierò, cambierò. Facendo giro tondo in ogni senso, strip e riverso, discorsi di un tempo. Sono nel mio mondo, tra gli altri mi sento spento. Mentre mi guardo intorno ammetto che è dura incassare il nostro effetto. Che ora si spezza contro la testa, che ci prova e ci riprova ad andare incontro alla vostra esistenza. Ma ora mi rendo conto che è impossibile stare in linea con te. Io lo so, mai cambierò. Davanti allo specchio, vivo quel momento, il mio sentimento. Realizzo e realizzo questioni che ho dentro. Scappo dal mio mondo per non sentirmi spento. Mentre mi guardo intorno ammetto che è dura cambiare il nostro aspetto. Che ora si pensa contro la testa, che ci provo e ci riprovo ad andare incontro alla vostra esistenza. Ma ora capisco bene che è impossibile stare in linea con te. Io lo so, mai cambierò. Cambierò, e allora accetta questo che ti do. Ehi, ehi, ehi, è sempre DJ Gasperino che vi parla qui dai microfoni dell'Altra Radio Roma. Questo podcast è stato costruito completamente con la musica libera, scaricata dal sito Jamendo, e abbiamo sentito degli artisti veramente eccezionali. Abbiamo passato quasi o circa un'ora insieme, poco meno, però il prossimo brano ci porterà via una cosa come 8 minuti, quindi passa i saluti. Ringrazio tutti a voi di aver scaricato questo podcast. Vi invito a scrivermi un'email qui su un'altra Radio Roma al fine di condividere con voi dei pensieri, dove potete darmi dei suggerimenti. Vi chiedo di non essere troppo cattivi nei miei confronti. Gli artisti che abbiamo ascoltato oggi sono diversi, li vado ad elencare. Abbiamo aperto con un brano elettronico, l'Effects of Elevation dei Revolution on Void, con i quali chiuderemo anche questo podcast. Poi abbiamo ascoltato Jumpy con il loro Speak to Me. Paolo Pavan ci ha fatto sognare con Pablito's Way. Smerte con Cold Circuit. Italco con Oro Nero. Memories Lab con Just Excuses. Successivamente i Full Dada Spy con La Verité Part 1. I Prau con Yaye Prau. Auda Hard con Tint. I Nutra Nuges con Mai Cambierò. Però prima di chiudere vorrei ricordare che questo spazio potrebbe essere anche il vostro. Costruito in podcast, inviatelo qui a un'altra Radio Roma, che dopo averlo ascoltato sicuramente sarà trasmesso. Prima di salutarvi calorosamente, caduta la penna, vi vorrei leggere una frase di Oscar Wilde che diceva: se fai finta di essere buono, il mondo ti prende molto seriamente. Se fai finta di essere malvagio, il mondo non ci crede. È sbalorditiva la stupidità dell'ottimismo. Un bacio a tutti e buon ascolto da un'altra Radio Roma. Loro sono i Revolution and Void con Factum Parfiction. Thank you. Thank you. Roma. E dove stanno te ste botti e ste bottie, oltre che a casa tua? Giù in cantina. Allora io vado in cantina. È tutta una... Ad ascoltare.